A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio Druca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Non c'è niente da fare, ci sono quei giorni in cui le notizie sembrano martellate, fanno un male cane. Questo è uno di quei giorni, quelle nel GR le avete sentite, le sentirete poi nelle prossime edizioni e in serata che arrivano dall'Afghanistan. Lo sport, tra l'altro, è stato a lutto, tutto lo sport italiano, comprese le Ferrari che correranno, diluvio permettendo domani mattina, tutto lo sport italiano sarà listato a lutto per quanto accade in Afghanistan. Ora stiamo per andare in onda, apro la home page del sito della Gazzetta dello Sport e tra secolo David Moss, giocatore di Siena che domani aprirà la stagione del basket con la Supercoppa di Lega, ebbene accusato di stupro avrebbe violentato una hostess. Stavo così leggendo sommariamente questa pagina, accusa pesantissima, scuote Siena alla vigilia della Supercoppa domani 18-15 contro Bologna. David Moss, denunciato per violenza sessuale, il 27enne statunitense, è stato accusato da una hostess della compagnia tedesca Lufthansa, secondo cui il 5 ottobre il giocatore l'avrebbe costretto a un rapporto sessuale sulla sua auto. Questo tutto da chiarire, vedremo. Certo è che questo è uno di quei giorni neri. Franco Arturi, vice direttore e anima della Gazzetta dello Sport. Ciao Franco. Ciao a tutti e a te in particolare. Giornataccia, dicevo. Per quanto riguarda le notizie che arrivano da tutte le parti luttuose dell'Afghanistan, non resta che anticipare quel minuto di silenzio che CONI giustamente chiederà allo sport italiano e mandare un pensiero affettuoso a quei ragazzi. Per quanto riguarda l'altra vicenda che alla quale è accennato, anche qui non si può fare altro che non ridire se tutto sarà comprovato e vero e comunque seguire gli eventi. Certo. Direttore, questa sera alle 23, parlando di sport vero, di sport sul campo, alle 23 sarà tutto bianco o nero. Avremo un'Italia in finale ai mondiali o un'Italia battuta dal Brasile a Roma ed è quella della pallavolo. Ieri sera alla stessa ora, intorno alle 23, era tutto un po' grigio. Ti dico la verità, il primo pensiero spegnendo la TV ieri sera verso le 11 è stato questo. Si potevano anche impiegare meglio ste due ore, dopo aver visto l'Italia del calcio. No, io sono meno pessimista e meno tendente al grigio e più all'azzurro. Non è inutile che facciamo suonare i squilli di gloria, inni, fanfare, la ripresa, la risalita è lunga, è difficile, mi pare che in questa squadra siano prevalsi i momenti di positività e di slancio piuttosto che quelli di negatività e comunque il risultato a mio avviso, grazie anche all'Estonia per il suo successo in Serbia è più positivo che altro. Cioè, sì. Io penso che un po' di ottimismo attorno a questa nazionale aiuti, non dico quanto un grande campione che speriamo sbocci, ma insomma quasi. Sì. Prandelli si è messo in mano a Cassano, il quale sta studiando da leader, mi sembra anche con grande applicazione emotiva, se me lo concedi. Non so se ci sta riuscendo fino in fondo, secondo me fino adesso non ancora. No, Cassano nel mio giudizio non sarà mai un leader di nulla, e sarà il grandissimo giocatore che è, ma i sacri testi che fino a prova contraria valgono parlano di due tipi di leader, quelli emotivi e strumentali. Non mi sembra che Cassano rientri in entrambe le tipologie. Cassano è giustamente un giocatore chiave, base di questa nazionale, se parliamo di leadership in quanto dotato del più importante bagaglio tecnico, ma sarebbe improprio pensare che lui sia il conducatore delle folle. Questo ruolo spetta ad altri, ci sono altri giocatori che hanno queste caratteristiche. Piuttosto non sono d'accordo con la battuta, diciamo così, di pessimismo che Prandelli ci ha trasmesso un paio di giorni prima della partita, non solo per quello che ho detto prima, cioè per il fatto che debba prevalere l'ottimismo attorno alla nazionale, ma anche perché secondo me non è vero che dal campionato emerge poco e non è vero che ci siano pochi giovani. Io mi chiedo perché noi applaudiamo per esempio oggi Cassani e Mauri, sì, che hanno rispettivamente 29 e 30 anni, dove sono stati negli ultimi 10 anni questi giocatori? Sono stati toccati dalla grazia calcistica il mese scorso? Cioè, noi dobbiamo ricordarci che i giocatori non sono come il vino buono, il vino piemontese di grande classe, che più invecchiano più sono buoni. Se sono vini, sono spesso vini novelli, vanno consumati subito. Io penso che ci sia del grande conformismo attorno a questa negatività che inviterei a lasciar da parte. Sì, tant'è vero che ieri guardando l'Under 21 ho visto ad esempio gente come Ogbonna, come lo stesso Ranocchia, ho visto dei giocatori, per non parlare di Santon, che spero abbia superato tutti i suoi problemi, però gente che perché non provarli al piano di sopra, insomma. Bravissimo, penso anche io, ho notato alcuni spunti di classe addirittura dalla partita dell'Under 21. Il primo gol mi sembra un'azione di grande livello tecnico. Certamente questi giocatori vanno provati prima che abbiano 29-30 anni. È inverosimile che da un paese di circa 1 milione di calciatori non escano dei campioni. È possibile che non avvenga nel pattinaggio su ghiaccio di velocità, che ha 300 tesserati. Quindi bisogna cercare, valorizzare e fare anche di necessità virtù a volte. Direttore, ti chiedo un attimo di pazienza perché avrei bisogno di un altro parere che trovo urgente sui fatti della settimana, perché quelle parole di Ettore Torri mi hanno personalmente un po' sconvolto. E poi volevo anche da te un augurio per la nazionale che gioca invece questa sera. Traffico, poi torniamo con Franco Arturi. Dunque, visto che abbiamo in linea Franco Arturi, che è anche una delle voci della coscienza del nostro sport, non solo del nostro giornalismo sportivo, ti dicevo di quelle parole di Ettore Torri, direttore, procuratore antidoping del CONI, ieri confermato da Petrucci nel suo ruolo, e non vedrei perché no. Però quelle parole pronunciate da un uomo così mi hanno non ti dico sconvolto perché è tanto, però molto colpito. Sono state giudicate fuori luogo praticamente da tutti e naturalmente io mi associo in pieno a questo tipo di valutazione critica, e queste sono osservazioni che attento si possono essere tollerabili in una discussione da bar, comprendiamo fino a un certo punto, le scusiamo certamente, considerando che vengono da un uomo che ha fatto moltissimo per lottare contro il doping fin qui, non esiste proprio che una figura istituzionale che debba lottare contro questa che è una delle due piaghe più importanti dello sport, l'altra è la corruzione, possa abbandonarsi a uno sconforto di questo tipo. Se avesse detto, guardate, per lottare seriamente contro il doping dovete darmi tot milioni di euro, tot segugi, per adesso io non ce li ho, faccio il poco che posso, l'avremmo capito molto di più. Era tutto sbagliato in quella frase, la premessa, tutti i ciclisti sono dopati, ce ne fosse solo uno, è una cosa sbagliata. La frase ipotetica, cioè se il doping non facesse male, ma siccome fa male non ha senso dire se, liberalizziamolo, allora varrebbe la pena di liberalizzarlo, non è una frase priva di senso anche nei termini tecnici. Che cosa liberalizziamo? L'epo? La cera? Gli anabolizzanti? E quanti? In che misura? Siccome non esiste nessun medico onesto che possa accettare di prescrivere dei farmaci per gente sana, l'espressione liberalizzare il doping non significa nulla. Ti chiedo ancora questo, direttore, per tirarci un po' su da questa discussione che è molto pesante. Condivido quanto dici, ovviamente, nei toni e nei contenuti. Questa sera, se battiamo il Brasile, ci aspetta un sabato sera meraviglioso, perché torniamo indietro di un sacco di anni e troviamo una nazionale italiana di pallavolo in finale ai mondiali. Che cosa grande, eh? Veramente, veramente maestosa. Non partiamo favoriti stasera contro il Brasile, però chissà che come 30 rotti anni fa l'area di Roma, quel palazzo strapieno, a proposito quanto è bello vedere un pubblico così, facciano se non il miracolo comunque il settimo uomo in campo. Vorrei dire una sola cosa sulla pallavolo. La pallavolo ha molto bisogno di un'affermazione o di un ritorno della sua nazionale maschile ai vertici. Senza che nessuno fraintenda quello che sto per dire, dato che alla pallavolo dobbiamo il fatto di aver tolto centinaia di migliaia di donne da un alfabetismo motorio impressionante, se questo sport viene troppo femminilizzato, imboccherà una china discendente come quella che è accaduto, come quello che è accaduto in Giappone. Sì. Quindi ci vuole uno sviluppo armonico di entrambe le componenti, e quindi a maggior ragione, no, spero, ripeto e sottolineo tre volte, che nessuno fraintenda in senso maschilista, che certo, è una cosa certo, che mi fa orrore solo il pensiero, certo, quanto ho detto, ma abbiamo appunto bisogno di fare ancora più il tifo per questi ragazzi, che del resto se lo meritano in pieno. Grazie direttore, buon lavoro, grazie di tutto. Grazie a tutti voi. Sempre un piacere con Franco Arturi. Ed è vero, la nazionale, il movimento della pallavolo tout court, anche quello femminile, e non è un paradosso, per nulla, ha bisogno di una nazionale maschile forte al vertice, che torni ad essere forte come sta tornando ad essere forte dopo un sacco di anni di buio. Tra poco torniamo a parlarne con Andrea Zorzi, prima un paio di ascoltatori, però 800 24 00 24, il numero verde, Salvatore da Como e Stefano della provincia di Imperia. Salvatore, buonasera. Buonasera a voi. Io volevo rispondere un attimo a questo dubbio amletico di questo giornalista che diceva dove erano questi giocatori tipo Cassano quando avevano 24, Cassani, 25, attenzione 26. Salvatore, non Cassano, Cassani. Parlava di Cassani. Ma io mi riferivo a Cassano, che anche lui c'ha un po' di anni, no? Sì. E poteva arrivare prima in nazionale. Ci abbiamo provato, sì. Giusto, se qualcuno, no, per motivi che tutti sappiamo, anche voi giornalisti, ma nessuno ha quelle cose lì per dire la verità del motivo per cui Lippi non ha portato Cassano in nazionale. Ma come mai non abbiamo questa forza? Ne facciamo come i segreti delle... Va bene, delle, allora lo dica lei. Mi vuole raccontare ancora la storia della lite in discoteca tra Cassano e il figlio di Lippi? Non lo so, vorrei che qualcuno lo dicesse finalmente perché Cassano non ha giocato in nazionale. No, me lo dica lei. Secondo lei è per questo? Anche per questo. Allora, ma l'abbiamo detto mille volte. Cioè, è una delle teorie. È una delle teorie. Io ci credo. Ma che sia stato. Ma perché lui non vuole mai parlare, Lippi? Ma che ne so, bisogna chiederlo a lui perché non ne vuole parlare. Voglio dire. Non ho capito. Queste cose. No, ma qual è? È un segreto? È un segreto di Puccini? Io la stimo moltissimo. No, ma anch'io la stimo moltissimo. Però non è un segreto. Cioè, sono cose che abbiamo detto mille volte. Sono due anni che lo diciamo. Lippi non lo convoca perché poi lo chiede a Lippi e ti dice no, non è così. E allora che facciamo? È la federazione che paga. No? Che paga, quindi noi teniamo lì una persona che ha disturbato un gentiluomo qual è, come anche Brandelli, qual era Donadoni, disturbandolo mentre lavorava, sì, dicendo io tornerei subito in nazionale, tornerei, già che lui ha vinto il mondiale non sa neanche come, vincendo anche il pallone d'oro, la miglior difesa del mondiale, sì, quindi abbiamo avuto tanto di quella fortuna e sono contento di averla avuta, però ha vinto un mondiale che forse non doveva neanche giocarlo lui, quindi si è dimesso, e dato che si è dimesso la federazione non doveva più riprenderlo, è ma dato che sono d'accordo. Allora Salvatore, sono d'accordo sul fatto che sia stata sbagliata questa retromarcia da entrambe le parti, da parte di Lippi e da parte della federazione. Adesso però stiamo un po' rivangando il passato, stiamo comunque parlando di un allenatore che già che c'era ha vinto anche un mondiale, non sapremo come, non sapremo quanto, non sapremo quanta fortuna, ma ha vinto anche un mondiale, così en passant. Cioè, guardate che solo in questo paese si riesce ad arrivare a tali critiche. Capisco che poi l'ultima ferita è quella che fa più male, ma nei confronti di un allenatore che ha vinto un mondiale, ce l'hanno fatti in tre, non in tantissimi nella storia del calcio italiano. Comunque è stato un errore, ma su questo sono d'accordo, tornare indietro da una parte e dall'altra. Però insomma, stiamo tra un po' ricominciamo a parlare del gol di Turone, insomma. Stefano, provincia di Imperia, poi andiamo sulla pallavolo. Pronto, buonasera. Senta, io volevo fare una considerazione. Si è molto parlato, anche voi giornalisti prima con il suo collega avete parlato ancora una volta di quello che ha detto Torri, della procura antidoping per il ciclismo. Sì. Però io vorrei che anche da parte vostra non si... Cioè, non che non ci fosse ipocrisia, perché è una parola sbagliata, mi perdoni, però non ci siano le fette di prosciutto sopra gli occhi. Cioè, un corridore a questo livello, per correre 20 giorni in quella maniera, con quelle scalate, con quelle montagne, senza praticamente con un paio di giorni di sosta al massimo, con quelle andature, una persona normale, un ciclista normale, non ce la può fare a quei livelli. Fanno delle scalate di montagne, scalano il Mortirolo, scalano delle montagne, sì, che hanno il 20-30%. Però Stefano, questo l'hanno sempre fatto. È impressionante, un motorino. L'hanno sempre fatto. Le velocità adesso sono molto inferiori rispetto al passato. L'hanno sempre fatto di scalare queste grandi montagne. Cioè, non è che prima i giri, i tour fossero tutti in pianura. Quindi le grandi montagne e le grandi fatiche ci sono sempre state. C'è stata un'epoca in cui c'erano tempi di recupero ben più che sospetti, perché lì è la grande efficacia, la grande tentazione del doping. Ci sono stati tempi in cui le velocità, e ha ragione lei, e le velocità medie erano qualcosa di difficilmente spiegabile. Però non possiamo dire, non si possono scalare quelle montagne tutti i giorni per 3 settimane, perché altrimenti c'è, insomma, se non dopandosi, perché non è così. Si può farlo allenandosi e facendolo come professione, in maniera più seria e professionale possibile, per l'appunto. Ma dire un corridore per forza è dopato, no, anche perché noi nel settore della vita, sport compreso, secondo me c'è sempre quel principio che si chiama di presunzione di non colpevolezza, no? Che per me vale anche nello sport. Adesso però vorrei un attimo parlare di altri argomenti, cominciando a farvi sentire una cosa, chissà se di buon auspicio oppure no, io ve la faccio sentire lo stesso. Ancora 15 a 14, è tornato in battuta il capitano Andrea Lucchetta. Ricezione, Iago, palla per destra in seconda linea, Lucchetta difende, del bagger! Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare. Iago, proviamo col muro, resta in campo Cubano, il pallone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Berardi! Berardi! Campioni del mondo! Sul tetto del mondo! È il grande momento! Sul tetto del mondo! 16 a 14! Mi auguro che la voce di Jacopo Volpi sia di buon auspicio. 28 ottobre 1990, Rio de Janeiro, Italia batte Cuba 3-1 dopo 9 match ball che molto meglio di me si ricorderà Andrea Zorzi, che li ha vissuti in un'altra prospettiva. Mica tanto, anzi, sai che ho perso una scommessa una volta? Sì. Perché non mi ricordavo che il set decisivo era finito 16-14, ero convinto fosse finito 15-13, tanto per darti un'idea di quanta confusione ci sia quando si è in campo, quando si è un po' presi da quell'inevitabile trans agonistica. Senti, sì, no, sì, però poi il resto, questa voce l'ho sentita molte volte. Confesso anche che l'ultimo punto l'ho sentito, visto molte volte, perché non era una mia scelta. Non ho mai rivisto la partita intera, invece. Mai. Non mi ricordo, per esempio, com'è la sequenza dei set. Non hai mai rivisto la partita intera? No, mai rivisto la partita intera. Beh, da molto tempo dico che l'ho fatto, perché così quando sarò più vecchio avrò qualcosa da fare. Magari è il momento di iniziare a guardarsi questa partita e anche qualche altra vincente e perdente. Senti Andrea, sarebbe secondo te giusto o ingiusto e ingeneroso paragonare questa squadra a quella? Beh, guardi, i paragoni generazionali sono sbagliati a prescindere. Sì, sono sbagliati a prescindere, poi si fanno perché è difficile resistere, però è una squadra davvero molto diversa. Innanzitutto Jacopo Volpi 4 anni dopo, nel 94, coniò il termine generazione di fenomeni, che però va presa in considerazione anche come omogeneità anagrafica. Cioè quel gruppo mio di Lucchetto e di Cantagalli era più o meno anagraficamente omogeneo. La nazionale di adesso, di Mastrangelo, di Parodi, in realtà c'è in mezzo anni e anni di differenza. Non c'è quella compattezza da definire questa una generazione. Io sono però felicissimo che, nonostante il contesto sia molto diverso, nonostante i caratteri di questi ragazzi siano molto diversi, hanno trovato il loro modo per essere una grande squadra. Questa è, secondo me, un po' la magia dello sport, che si realizza in modalità molto molto diverse. Quindi i brasiliani sono invece un gruppo molto più omogeneo, gli italiani hanno trovato un loro modo speciale, i serbi sono un paio di vecchi bravissimi, un paio di giovani fortissimi, e lì in mezzo hanno fatto una cosa meravigliosa. I cubani sono tutti dei bambini, perché c'è un 17enne in campo che sta giocando in questo momento, in un momento delicato dell'incontro, Leon, che fa veramente impressione in senso positivo. 25-22 Serbia, se non ho visto male. Hai visto bene, vero? Primo set. Italia imbattuta, Andrea. Italia che arrivi imbattuta a questa partita con il Brasile. Italia che arrivi imbattuta, che gioca in casa, che è sfavorita, diciamolo. Sì, è sfavorita. Il fatto che sia imbattuta è relativamente importante, perché questa formula non ha incrociato spessissimo le squadre più forti. Arriviamo da sfavoriti, però scusa la parola, c'è chi se ne frega. È l'occasione per giocare una semifinale, come scrivo oggi, a cuore aperto, perché è una partita meravigliosa, una partita in cui teoricamente puoi davvero essere abbastanza rilassato. La pressione ricade per tante ragioni un po' sul Brasile. Non è un Brasile monster come è stato per qualche anno, un Brasile che litiga, che fa fatica, che secondo me si tira un po' anche la pressione del fattaccio di Ancona quando ha giocato a perdere, però è una squadra che è abituata a lottare, e questo la rende la squadra per adesso migliore del mondo. Vediamo, siamo qui tutti quanti, Palasport sarà strapieno, qui si fanno i paragoni con il 78 quando l'Italia vinse con Cuba, guidata da Carmelo Pittera e poi via dicendo. In realtà oggi io credo che la cosa bella sia quella di restare con la testa qui e pensare solo ad ogni palla che andrà giù da una parte o dall'altra. Tanto poi della partita parleremo domani, però c'è un'altra cosa che mi incuriosisce, che ti voglio chiedere subito. Prima di questa partita, 13 mesi fa giocavamo un europeo, ne parlavamo anche insieme, in cui l'Italia fece, diciamolo pure, una brutta figura, arrivando decima. 13 mesi dopo troviamo un'Italia in semifinale ai mondiali. È stato chiesto da Anastasi, no? Ma com'è questa trasformazione? E lui ha detto, ma è una storia interessante, un giorno o l'altro ve la racconto, però non ha risposto alla domanda. Semplicemente maturazione, secondo te, o è successo qualcosa di diverso? No, ci sono alcune scelte della coppia Anastasi-Gardini che sono scelte importanti, ci sono alcuni confronti diretti che sono importanti. Poi la cosa che a me rende, che mi affascina molto è che per quanto riguarda una squadra, in realtà i tempi di miglioramento e anche di peggioramento non è che sono lineari, non è che ci vuole un tot di mesi per migliorare o un tot di mesi per peggiorare, è sempre alla giornata, il che rende bellissimo e non prevedibile quello che avviene. Quest'Italia, ripeto, ha fatto un passo straordinario perché tra Mastrangelo e Parodi e Marra, che è il nuovo libero, e non c'è proprio quella continuità anche caratteriale che altre squadre hanno. Ciò nonostante, il campo, il gioco, la pallavolo li ha uniti e li sta rendendo una squadra molto compatta. Se questo poi sia sufficiente oggi a vincere contro i brasiliani non lo so e temo sia piuttosto complicato. Ciò nonostante, ripeto, questa è la bellezza dello sport, in cui l'imprevedibilità nella maggior parte dei casi è veramente un grande pregio. Andrea, ci sentiamo naturalmente domani. Dai, vi aspetto domani e fatemi un in bocca al lupo, dai. Certo, in bocca al lupo, ma sia chiaro, ma grosso così. Crepi il lupo. Grazie Andrea, un abbraccio. Ciao. Grazie ad Andrea Zorzi. E intanto per la cronaca, la Serbia ha vinto primo set su Cuba, 25-22. Ci fermiamo un attimo, 800-24-00-24, poi avrei altre cosucce di cui parlarvi, quindi state con noi. Non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà. Invece, come sapete, poi l'hanno venduto Kakà. Direttamente dal programma Cult di Sky per calciofili e non solo, Alessandro Bonan. Ciao, grazie. Ciao, e lo sapevo io. Che cosa? Che mi avresti fatto subito questa domanda. Ma ti intriga questa storia? Al di là di tutto, è il gossip del momento. Ti intriga? Il gossip del momento è estremamente intrigante. Però bisogna stare un po' agli elementi che abbiamo in mano sin qui. Ho un fastidioso ritorno, tra l'altro, devo dire che non so se riesco ad andare avanti. Sì. Forse vogliamo provare a rifare la telefonata. Se mai proviamo a rifare la telefonata, Alessandro. Proviamo a rifare la telefonata che magari ci viene meglio. Dunque, tra pochissimo, Alessandro Bonan, io se volete vi faccio nel frattempo risentire, così magari ci pensate sopra. Io ci credo poco, vi dico la verità, è la mia impressione. Si parlava degli elementi che abbiamo in questo momento. Abbiamo la nazionale che gioca e quindi tutto il tempo necessario per parlare di questi argomenti. Abbiamo questa enorme suggestione. Abbiamo il Milan e abbiamo l'Inter. Abbiamo Alessandro Bonan che magari adesso ci sente. Va meglio? Sì, io vi sento benissimo. Anch'io. C'è sempre il fastidio di ritorno, ma cerco di andare avanti. Sì. Allora, tu volevi sapere di Kakà, di questa suggestione, di questo gossip. Dobbiamo un po' ragionare su quello che abbiamo in mano sin qui. Sin qui abbiamo in mano alcune carte. La carta Mourinho, che ha mostrato la sua insoddisfazione sin dal primo momento nei confronti di Kakà. Abbiamo la carta dell'entourage del giocatore, che dice che questa è una cosa che si può fare. E c'è la carta Galliani, la carta Milan, che al momento è picche. Cioè il Milan al momento dice che è un affare impossibile. Ma perché? Perché per concludersi un'operazione così complicata come questa si deve soprattutto verificare un fatto, cioè il Milan si libera di Ronaldinho. Certo. Perché non credo sia possibile che Kakà possa coesistere in Milan del futuro con troppi giocatori offensivi e soprattutto facendo tornare Kakà, che mostrò le prime difficoltà al Milan al di là dei fatti fisici, proprio perché non riusciva a coesistere con Ronaldinho. Sì, Ronaldinho ieri ha detto: non me ne vado neanche con le martellate, sto qui fino alla fine della stagione, dunque il discorso sembra chiuso. Ma ti divertirebbe di più al Milan o all'Inter, Kakà? Perché c'è anche la pista Inter, uno dice, ma in fondo il Real vuole Maicon, l'Inter potrebbe volere Kakà, magari, eh? Guarda, mi divertirebbe di più all'Inter, sicuramente. È chiaro che la vicenda assumerebbe dei contorni molto, molto strampalati, diciamo così, visto che Ibra poi è finito al Milan, sembrava impossibile. Però se devo fare un ragionamento dal punto di vista tecnico, Kakà mi convince molto di più all'Inter che non al Milan. Sì. Cioè, in una squadra che prevede due mediani e tre giocatori offensivi dietro la prima punta, Kakà all'Inter mi sembrerebbe perfetto. Sì, Alessandro, invece ti sarei divertito poco insieme a me con la nazionale di ieri sera, o no? Ma sai, guarda, il lavoro di Prandelli è estremamente complicato, difficile, il calcio si è complicato a livello internazionale per tutti, cioè tu guarda quello che ha fatto la Serbia, ha perso in casa con l'Estonia, cioè rispetto a tanti anni fa, adesso il mondo è diverso, molte nazioni si sono smembrate, fare il risultato è sempre molto difficile, soprattutto ha cambiato la geografia del calcio. C'è una forte immigrazione che ha fatto perdere tante scuole, la scuola italiana ormai non ha più una sua identità e quindi è chiaro che il lavoro di Prandelli è difficile, anche perché una volta tu potevi puntare sul blocco e d'amblè avevi il gioco, adesso il gioco te lo devi cercare, te lo devi creare e tra l'altro Prandelli in questo è bravissimo, sicuro, però non ha molto tempo a disposizione per cercare il gioco di una squadra che in questo momento ovviamente mostra alcune difficoltà. Certamente. Io prima di salutarti volevo chiederti una consulenza, però prima di chiederti questa consulenza vorrei far sentire delle dichiarazioni che oggi Sky ha mandato di Andrea Della Valle, patron della Fiorentina. Sentiamo. Vi do una notizia sulla Cittadella. Questa è una notizia ben precisa. Qui siamo anche stanchi di sentire queste strumentalizzazioni. Basta. Politici di qua, politici di là. Il presidente non c'è posto, quell'altro ci lavorerò. È tutto un annacquarsi e Della Valle non investe perché non c'è la Cittadella, che poi ricavi la Cittadella fra 7 anni, e bisogna parlare con il potere economico, bisogna parlare con i politici, come se io sto qui a passeggiare. Allora ve lo do io oggi la notizia ufficiale. Per la famiglia Della Valle il discorso Cittadella ad oggi è un capitolo definitivamente chiuso. Ecco, qui chiedo un consulto di politica locale toscana al pistoiese Alessandro Bonan. Parla anche di cricca Della Valle. Beh, da molto tempo i Della Valle, che sono degli imprenditori, hanno manifestato insomma la loro insofferenza per le difficoltà che incontrano nel realizzare un progetto, un'operazione che non sarebbe soltanto una eccezionale operazione imprenditoriale da parte loro, ma che significherebbe per una realtà così importante come Firenze, che è la Fiorentina, fare un passo in avanti notevole, più di un acquisto da 50 milioni di euro. Sì. E quindi io non so esattamente quali siano i poteri trasversali, quelli che si mettono appunto di traverso e che impediscono ai Della Valle di portare fino in fondo il loro progetto. Però mi sembra che queste parole di Della Valle abbiano l'intenzione di smarcarsi dalla teoria secondo cui o si fa questa Cittadella o i Della Valle non vanno avanti. Sì, sì, cioè, loro sì, vogliono sì, dire, cioè noi continuiamo a investire, andiamo avanti, certamente questo però per noi è un piccolo grande problema e sarà un motivo di profonda insoddisfazione per noi e conseguentemente anche per la città. Certo, visto che questa è la lettura, vedi che avevo ragione di chiederti questa consulenza. Grazie. Grazie Ale. Ciao, a presto. Un abbraccio, grazie ad Alessandro Bonan. Sì, la sensazione è questa, insomma, le parole Della Valle, perché tutti hanno detto per molto tempo la Fiorentina e Della Valle mettono in cima alle loro condizioni per restare alla Fiorentina la realizzazione della Cittadella. Il senso di quanto ha detto oggi Della Valle, ha ragione Alessandro Bonan, è questo: ci mettono i bastoni tra le ruote, non so chi, perché poi ha parlato anche di cricca, ha parlato di poteri locali eccetera eccetera, non so esattamente quale sia la situazione, però il senso di queste parole, il senso importante è questo: non ci fanno fare la Cittadella, ci inventiamo qualcos'altro ma andiamo avanti. Credo che così debba essere letta questa esternazione di Della Valle. Un sacco di argomenti oggi. 800240024, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme, poi magari domani riprendiamo tutti insieme, perché comunque saremo insieme anche se non c'è campionato dalle 5 alle 7, quindi tanto spazio per gli ascoltatori. Oggi vogliamo buttarvi lì un po' di suggestioni. Domani approfondiamo. Traffico. Ecco che torniamo. Io vi do anche qualche altra notizia. Innanzitutto, Prandelli che ha parlato, non siamo riusciti a farvelo sentire, però vi possiamo così girare qualche dichiarazione per iscritto. Gli occhi della tigre l'Italia li troverà, dice Prandelli. Quando vesti la maglia azzurra, ha parlato pochi minuti fa. Quando vesti la maglia azzurra, quella forza ti viene spontanea, non c'è bisogno di sollecitarla, sono convinto che li avremo anche noi, ha detto il commissario tecnico azzurro, rievocando la definizione del suo collega della pallavolo, Julio Velasco. Siamo in tema, in argomento. Non so se la mia Italia offensiva sia una rivoluzione, ma questo è il mio modo di intendere il calcio, anzi la voglio anche più offensiva, anche noi la vorremmo anche più offensiva, anche perché... se ci vendono tre punte, compreso Pepe, io non ci sto. Pepe per me è un centrocampista. Però non facciamo discorsi da fantacalcio. Oppure facciamoli, torniamo a farli, perché io non sono ancora soddisfatto. Non sono ancora convinto di quel sussurro, quella voce di Kakà al Milan, senza farvi risentire il non si vende Kakà ormai famosissimo. Vorrei un consulto da un principe del mercato come Claudio Pasqualin, più noto dei nostri procuratori. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio, grazie per la lusinghiera definizione. Ma, che però ma lei ci crede? ma lei ci crede? Relativamente. Io invece so come nascono certe idee, no? Cioè, sì. La fabbrica delle notizie a volte funziona perché 2 più 2 fa 4, no? Sì. Ma non sempre però è così. E allora... succede che Kakà a Madrid non impatta, poi ha qualche attacco fisico, Ronaldinho non rinnova con il Milan, fa fatica a farlo perlomeno, e io ho qualche dubbio, e questo sì è un discorso serio, e allora si dice Kakà al Milan, questa è la cosiddetta fabbrica delle notizie, sì. Ma i riscontri nelle segrete stanze... da là dove vuol si colare, cioè, ciò che si può e ciò che si vuole, come diceva Dante, sono altre. Ecco, quindi io sono perplesso e prendo atto che c'è una certa qual'logica. Sì. Però adesso possiamo tutti parlare, chi meglio chi peggio, solo sulla base delle proprie personali sensazioni. Certo. Certo. La mia è che qualcosa potrebbe esserci. Qualcosa potrebbe esserci. Intanto Bosco Leite, ingegnere, professione ingegnere da San Paolo, papà di Kakà, ieri è andato a trovare i vecchi amici nella sede del Milan. Ma viene tutte le volte a bere il caffè da noi. Ma qual è il problema? Ha detto Braida. Bah, qual è il problema? Intanto era lì proprio in questi giorni. Ma lei crederebbe di più a un Kakà che torna a Milano e torna nei suoi vecchi appartamenti, o che traslochi in quelli nerazzurri? No, più a Milano e i suoi vecchi appartamenti. Sì. Sì, sempre a livello di sensazioni, perché credo che né Galliani né Moratti si siano mossi. Comunque anche loro leggono i giornali, quindi magari a volte le idee vengono anche leggendo i giornali. Quindi sì, io credo di più eventualmente all'ipotesi rossonera. Sì, avvocato, le chiedo anche questo, e Maicon, che invece è tornato a premere per andare al Real Madrid, non potrebbe essere un buon inizio di un altro discorso? No, che Maicon possa lasciare l'Inter mi sembra un'ipotesi abbastanza seria, insomma, anche se sembra che Moratti qualcosina gli abbia allungato. Sì. Discretamente, insomma, ecco, però cioè, senza farlo sapere, sì. Perché poi l'effetto a catena sappiamo qual è il solito, però sì, che poi possa entrare in un discorso per Kakà, anche questa è un'ipotesi, ma siamo a ottobre ed è presto, insomma, siamo alle suggestioni appunto. Alle fantasie per quanto ardite. Io la ringrazio, è sempre un piacere. La prego, a lei. Grazie. Buona continuazione. Grazie a Claudio Pasqualin. Dunque, sognate se volete. Intanto io parlo con Silvano da Como. Buonasera. Buonasera, caro. Parlo con Silvano da Como, se mi abbassa la radio, se no non sento nulla. Grazie. Sì, assolutamente. Scusa. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Sempre molto pacata e molto competente. Volevo parlare a proposito del doping, sì. Esprimendo invece la mia completa solidarietà alle dichiarazioni fatte dal procuratore Torri antidoping, semplicemente perché condivido la provocazione. Siamo partiti da un po' quasi fermo per caffeina, oggi troviamo la creatina in qualsiasi integratore. È chiaro che pensare all'autoemotrasfusione come, come legalizzazione è pazzesco, però ci troviamo sicuramente in una situazione in cui io credo lo sport del ciclismo sia assolutamente falsato, sì, ma in tutte le squadre, in tutti gli interpreti, se vogliamo chiedere... Cioè, lei dice, con il procuratore Torri sono tutti dopati? No, io dico che se vogliamo credere alla caramella della zia... No, no, la caramella della zia di Simone non ci ha mai creduto nessuno, neanche alla, Simoni. Appunto, voglio dire, io sono stufo di entusiasmarmi per le persone che salgono il Mortirolo, in cui io ci vado in vacanza tutte le volte, so bene quanto sia duro farlo in macchina, nemmeno farlo in bicicletta. No, però Silvano, no, ma lei, insomma, io capisco perfettamente il suo ragionamento, no? Quindi è difficile credere che sia possibile andare a vincere a Paneacqua, eccetera. Però, torno a ripetere, da un punto di vista legalistico, io sono e sarò sempre per il principio di non colpevolezza. Poi, se vogliamo dire che il doping ha poche risorse, perché questo ha detto Torri, che il doping va molto più veloce rispetto al doping, insomma, è una battaglia molto difficile perché parti da una posizione di inferiorità, sono tutte cose verissime. Io però sarei anche per dire, d'accordo, facciamo questa guerra con il fucile caricato a tappi, come ha detto Torri, però quando riusciamo a beccarne qualcuno, che sia Contadoro che sia l'ultimo della pista, questi non devono più salire in bicicletta. E allora vediamo, perché così il gioco può valere la candela, no? Se sono un anno, se sono due anni, se sono tre anni di squalifica, come è successo a Ricco, come è successo a mille altri, beh, ma allora perché no? Può essere un investimento sul futuro. Ma se... tu gli dici, ti becco una volta e tu non corri più, beh, allora vediamo se il gioco vale la candela. Perché questo, secondo me, è il punto. Io ringrazio Silvano, domani riapriamo i discorsi, però vorrei chiudere con un'altra cosa, vorrei chiudere con pensieri più lieti, vorrei tornare lì. Ancora 15-14, è tornato in battuta il capitano, Andrea Lucchetta, ricezione, Iago, palla per testa in da seconda linea, Lucchetta difende, del bagger! Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare. Iago, proviamo col muro. Resta in campo cubano, il pallone non cade. Lottiamo ancora a rete. Lucchetta, Paolo. Berardi! Berardi! Campioni del mondo! Sul tetto del mondo! Pensate che quando Jacopo Volpi diceva queste parole, la mia amica Sara Anzanello aveva, ho fatto i conti, 10 anni e nemmeno 3 mesi. Perché è nata il 30 luglio dell'80. Giovane? Giovanissimo. Quindi non ti dico se ti ricordi, perché tanto non ti ricordi, o no? Non mi ricordo, suonavo il pianoforte, non sapevo neanche cos'era la pallavolo. Suonavi il pianoforte, non sapevi neanche cos'era la pallavolo, però poi l'hai imparato e a vivere quella sensazione ci sei andata tu nel 2007 quando avete vinto tutto. Sì, prima nel 2002 che abbiamo vinto la mondiale. Certo. E poi comunque siete diventate anche voi una generazione di fenomeni, no? Sì, abbastanza. Mai come la vera generazione di fenomeni del maschile, che quella lì veramente era una generazione di fenomeni. Però sì. Alla fine abbiamo vinto il mondiale ed è il primo mondiale vinto nel femminile. Insomma, certo. Secondo me ha fatto grandi passi avanti il femminile negli ultimi anni. Certo, Sara, io volevo da te giusto un parere rapidissimo su una battuta che ha fatto prima Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, dicendo che il movimento della pallavolo italiana, anche quello femminile, ha bisogno di una nazionale maschile al vertice. Sei d'accordo? Secondo me, la nazionale maschile, cioè in generale i maschi attirano di più delle femmine, è sempre stato così e secondo me sarà difficile cambiare la tendenza, anche se noi ci proveremo, che sia al vertice, cioè ai tempi la nazionale maschile era al vertice, ma quella femminile era sotto, ma molto, molto, molto giù, e quindi alla fine se la nazionale maschile non c'entrerà l'obiettivo che si è posta, spero che la nazionale femminile lo faccia mondiale. E questo ci sta. Sara, se hai 5 minuti, adesso devo chiudere purtroppo, se hai 5 minuti di tempo, magari torniamo a fare due chiacchiere domani, con più calma e col risultato in mano. Intanto ti ringrazio che ci tenevo che fosse una dei fenomeni femminili che ha vinto tutto a fare gli in bocca al lupo agli uomini che stasera giocano alle 21. Grazie a Sara Anzanello, ci sentiamo domani anche con voi. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Carmelo Lauricelli in regia. Domani siamo qui dalle 5 alle 7. Buona serata. tempo di sport.